Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. Siamo on air, siamo in onda con il soundcheck di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegé Telesforo, qui dal Groove Master Studio e come sempre in compagnia di uno dei miei partner ideali. Devo dire che preferisco Silvia Barba, ma mi devo accontentare con un barbuto Francesco Tromba. Ciao a tutti. Ecco, oggi sei particolarmente effervescente, non so che aggettivo potrei usare per definire questa magliettina floreale. Che fiori sono? Colorato, diciamo. Sono molto colorato. Colorato, dai. Che fiori sono? Si capisce neanche. Giapponesi. Giapponesi, cioè. Sei orrendo. Tu dovresti venire, entrare in questo studio asettico, con tanto di camice bianco, da esperto del settore multimediale, responsabile della mia discografia, che prima o poi dovrei mettere in ordine. Con i guanti, la mascherina. Ecco, per non ti preferirei così, nulla. Con questa magliettina. Dove sei stata? Al mare? Sì, vengo col direttamente secchiello dal e la mare. Paletta proprio. Va bene, Tromba, raccontiamo che cosa succederà oggi. Airplay molto vario, con una seconda parte diciamo etnica, contemporary world music. Sì, bellissima, tra bellissimo. Musica molto forte nella seconda parte, nella prima parte un po' di cose varie. Il tutto però condito anche dalla bella presenza di una nostra amica che sta per raggiungerci. Infatti siamo felici di ospitare per la prima volta al soundcheck di Radio 24 una chitarrista, cantante e compositrice che arriva direttamente dall'Argentina, anche se è residente a Roma da diversi anni per completare il suo percorso di studi al Conservatorio di Santa Cecilia, dove si diplomerà presto in canto, ovvero Gisela Oliverio. Ecco, perché abbiamo invitato Gisela Tromba? Per far capire come un altro aspetto della musica, ovvero per indagare sui cosiddetti buskers anche, no? Sui cosiddetti buskers, sì, perché noi musicisti di jazz siamo nati e cresciuti e moriremo nei jazz club. Una volta fumosi, adesso non si può fumare, però insomma con quel rapporto intimo con il pubblico. Poi ci sono i grandi artisti, le pop star, che lavorano in spazi giganteschi, enormi, con il pubblico molto distante, quindi non hanno proprio quel tipo di rapporto. Poi ci sono dei musicisti che amano come palcoscenico la strada, e fra questi c'è proprio la nostra Gisela, che oltre ad essere una brava musicista è anche un'esperta viaggiatrice, perché fa questo girando per il mondo. Io ne conosco diversi di musicisti eccellenti che hanno scelto di lavorare nel circuito tipico di chi fa musica, ma anche di esibirsi liberamente, forse proprio questo è il termine esatto, in strada. E quindi io voglio capire proprio che tipo di esperienza è. Io l'ho fatto un paio di volte, l'ultima volta era un'esperienza molto ben organizzata, però quindi non ha tanto senso, in metropolitana con il quartetto di Max Ionata, però era una sorta di flash mob ma prodotta. Sì, quindi sì. Non vale. Non vale non come vale. Buskers. Non vale come buskers, no. Sì, perché il buskers è proprio quello che si prende, nel caso dei musicisti, l'amplificatore, la chitarra, come sì. Fa Gisela, un piccolo impiantino, e si mette lì anche con il rischio di essere sorpreso dalla polizia, dai vigili, no? No, però in alcuni paesi in realtà è tutto molto regolamentato. Ma devi avere il permesso? Sì, ovviamente devi invece avere il permesso. Invece mi sa che lei va in giro senza permessi, e questa è la cosa bella. Ma ne parleremo con lei. Intanto direi di andare alla musica e di presentarvi un duo indiano. Finalmente arrivano gli indiani, senza tabla però in questo caso. No, assolutamente no. Infatti non sembrano molto indiani ascoltandoli. Loro sono Nishai Parekh e Ivrai Singh. È un duo indiano che viene dal Bengala dell'Ovest. Sono molto particolari perché sembrano usciti da un film di Wes Anderson. Anche nei loro video sono fantastici, molto belli, tutti colorati. Mi sa che Parekh e Singh hanno dichiarato il loro amore per questo regista. Sì, no? Assolutamente. Infatti sembrano proprio venuti fuori da un film di Wes Anderson. Allora direi di ascoltare subito il brano con il quale si sono fatti conoscere Parekh e Singh. Molto divertente. Come potremmo definire la loro musica etichettandola? Uno swing indie pop Sì, anche un po' ipnotico, psichedelico, dream pop più o meno. Dai. Va bene. I Love You Baby, I Love You Doll, Parek & Sing, per la prima volta al soundcheck di Radio 24. I love you baby and I love you doll. Un duo indiano al soundcheck di Radio 24, Parek & Sing, con il singolo che li ha lanciati a livello internazionale intitolato I Love You Baby, I Love You Doll, qui al soundcheck di Radio 24, dove siamo in attesa di accogliere finalmente una bella ragazza. Io sono stufo di ritrovarmi sempre di fronte a questo barbuto Francesco Tromba, oggi terribile con questa maglietta a fiori. Vabbè, allora io esco, me ne vado. No, e tu scusa, non sei contento di conoscere Gisela? Beh sì, contentissimo. Sì, stiamo aspettando la nostra amica Gisela Oliverio per farci raccontare la sua vita da musicista in strada. Certamente frequenta anche ambienti quelli classici, no? Sì, sì, infatti proprio... lei studia al conservatorio. Mm. Ma è una viaggiatrice e quindi ci faremo raccontare le sue avventure. Vogliamo ascoltare qualcos'altro di Parek & Sing che hai scelto? Sì, ascoltiamo un nuovo singolo. Mm. No? Vuoi? Sì, come volentieri. Si intitola? Dimmi il titolo almeno. Si chiama... Ghost. Ghost, vedi, sono in ritardo. Con me sempre. Soundcheck, il suono della musica. Sound internazionale per i Technoir con Bubbles al soundcheck di Radio 24. Suono internazionale per una band però residente nel nostro paese. Sì, anche se loro in realtà hanno origini sia greche che nigeriane per parte della cantante. E invece il polistrumentista, principalmente chitarrista, viene dalla Grecia, ha origini greche. Ma sono bravissimi, hanno veramente... non sembrano una band italiana. Ma tu li hai visti dal vivo? Ancora no, purtroppo, però... li ho contattati un paio di volte. Bene, allora aspettiamo anche di incontrarli, Technoir, prima o poi, magari in giro la prossima estate, o se ci sarà una futura edizione del nostro soundcheck alla prossima stagione, perché noi stiamo per chiudere i battenti. Praticamente ci resta questo weekend con la puntata di domani sera, quella della domenica che parte alle 19:15, e poi il prossimo invece sarà il racconto di una stagione. Eh sì, siamo pronti ad andare in vacanza. Tu andrai in vacanza, io l'ho già detto, mi andrò a divertire facendo musica. Bene, ma siamo felici di accogliere nel Groovemaster Studio una apparizione, finalmente una bella ragazza, tra l'altro chitarrista cantante argentina di Cordoba, se non erro, e vado quindi a introdurvi Gisela Oliverio. Gisela, benvenuta. Ciao Gege, grazie. Grazie. Ciao a te. Ciao Francesco. Senti, ma tu hai anche un po' di sangue italiano nelle... Sì, sono i miei nonni che erano calabresi. No, sul serio? Sì. Guarda sì. Il tromba come... Calabresi di Reggio Calabria. Calabresi di Reggio Calabria proprio. E poi che cosa è successo alla famiglia? Cioè che cosa hanno fatto? I nonni si sono trasferiti in Argentina? No, mio nonno nel periodo della guerra è partito per l'Argentina e ha conosciuto mia nonna a Cordoba, che mia nonna invece era di Palmi. Ah, pure lei calabrese. Pure lei calabrese. Sì, capito, questi andavano all'estero e poi se la facevano fra di loro. Eh sì, ma infatti si vede subito, l'ho riconosciuto subito il sangue calabrese nelle vene di Gisela. Senti Gisela, ma perché c'è una comunità a Cordoba, allora, italiana Cordoba, calabrese? A Cordoba c'è la comunità calabrese più grande dell'Argentina. Oh, tromba. Devo dire, mio padre, figlio di calabrese, è sposato una donna piemontese. Mm. Quindi loro si sono portate anche le loro questioni nord-sur in Argentina. In Argentina. Vanno d'accordo? No. Fantastico. Va bene. Quindi tu comunque sei nata e cresciuta a Cordoba. Sì, sono nata e cresciuta a Cordoba. Ecco, avvicinati al microfono. Ecco, quello che io ho letto, che tu sei ancora oggi a un passo dalla laurea in architettura. Cioè ti manca quanto per laurea? Sì, mi sono mancati 4 esami. 4 esami. Avendo 23 anni ho deciso proprio di prendermi la mia strada nella musica e così ho iniziato a studiare composizioni a Cordoba, ho iniziato a studiare strumento, percussioni, chitarra. E piano piano mi sono resa conto che l'architettura mi aveva dato tutto quello che mi poteva dare. Ma ti aveva anche tolto molto tempo per la musica, forse, avendo poi scelto la musica. Sì, soprattutto io ancora a quei tempi ero molto timida, ero molto insicura del fatto di pensare alla musica, alla mia passione, al mio sfogo personale come una forma anche di lavoro. Mm. Farlo diventare un percorso proprio di vita. E a quel momento, quasi arrivata alla fine... ho cambiato strada, però ho preso la mia strada. Non Beh, magari un giorno, forse adesso sei concentrata sulla musica, però un giorno con quattro esami, guarda, forse per divertimento, per bricolage. Io ti racconto, mia madre a 47 anni ha deciso di iniziare a studiare giurisprudenza. Mm. E lei a quell'età ha cambiato, ha rivoltato proprio la sua vita, quindi non si sa mai. Che comunque quello che hai fatto tu, quindi ti stavi per laureare in architettura e infatti, poi hai abbandonato. Mi sono ispirata a lei, bisogna comunque... Che meraviglia, va bene Gisela, questo tanto per iniziare il racconto, per capire da dove viene un artista e come si è formato, quindi tu la musica comunque l'hai appresa lì nella tua città, a Cordoba? L'ho appresa nei primi anni, io a 3 anni, 4 anni sono stata portata in accademia di danza, ho praticato danza classica e danza moderna per 10 anni, sono cresciuta facendo danza e sentendo anche la musica attraverso il corpo. Mm. E quindi è parte proprio della mia infanzia. Mm. Comunque ci sono delle affinità fra l'architettura e la musica. Assolutamente. Io spesso sì. Quando faccio le masterclass parlo in modo particolare del ritmo, parlo dei ritmi, quindi di composizioni, di strutture architettoniche. L'architettura del ritmo, certo. L'architettura del ritmo. Assolutamente. Bene, ma fra un po' tu ci racconterai che diavolo è la vita del musicista, come diavolo è la vita del musicista per strada. È una vita avventurosa, ma ce lo dirai fra pochissimo dopo aver ascoltato invece un nuovo album, o perlomeno uno degli estratti dal nuovo album di questa campionessa dell'R&B contemporaneo. Una donna energica, tosta, questa è tosta, tromba. Sì, è tanta pure. Sì, perché vi stiamo parlando di Faith Evans, tanta anche perché un tempo doveva tenere a bada un signore che gigantesco era. Sì. Era che tutto era, bilanciato. Che era? Notorious Big. Notorious B.I.G., Notorious Big, e infatti questo disco che lei ha realizzato lo ha dedicato a suo marito. Eh sì, ci sono anche dei versi, diciamo, registrati, perché purtroppo è morto, non c'è più Notorious B.I.G. Eh sì, e infatti, quindi proprio un vero e proprio tributo da parte di Faith Evans e The Notorious B.I.G., The King, e lei è una campionessa del genere. Soundcheck. Il suono della musica. True Care è l'album recentissimo di James Vincent McMorrow, brano intitolato Glad It's Raining, sono contento che sta piovendo. Invece noi siamo felici perché qui la stagione promette bene, anzi dovrebbe piovere un po' di più, perché avrei notato che io faccio gran fatica a tenere il giardino in condizioni ottimali, tromba. Beh, però se piovesse di più dovresti pure tagliare molto più spesso il prato. Anche questo è vero, anche questo è vero, ma consumerei meno acqua, e l'acqua è un bene prezioso. È bello, sì. Allora, nostra ospite Gisela, qui sono contento di averti con noi. Anche Gisela, io sono molto contenta di essere con voi. Ah, bene, allora vediamo un po' cosa ci racconta la nostra Gisela Oliverio per il palcoscenico della strada. Ho intitolato questa puntata Il palcoscenico della strada, oppure poteva anche essere La strada come palcoscenico. Fatto sta che te, come musicista svezzata musicalmente a Cordoba dopo un periodo di studi di architettura, a un certo punto ti sei trasferita a Roma, dove ti sei iscritta al conservatorio, ma hai perso probabilmente il pelo, ma non il vizio di divertirti con la tua chitarra andando in giro per il mondo a proporre la tua musica per strada. Dimmi un po' come organizzi queste trasferte. Come organizzo questa trasferta? Allora, metto in una valigia il mio ampli, un amplificatore che è autonomo, e un'asta, un microfono, un pedal con dove ho degli effetti, un loop, e la mia chitarra nelle spalle. In questa valigia sempre resta spazio per i vestiti. Beh, certo, fondamentali. Certo, fondamentale, no? E quindi trovo il modo di arrivare ai posti, magari con dei pullman o con i treni, dove posso caricare tutto quanto. Tu perché sei qui? Perché noi siamo rimasti molto incuriositi da questa ultima esperienza che hai fatto, che tu hai raccontato utilizzando Facebook. In 12 giorni ho visitato Milano, Praga, Berlino, Amburgo, Bruxelles, Parigi. In 12 giorni? In 12 giorni. E poi sei rientrata a Roma. Che quello è stato un errore, perché bisogna comunque stare un po' di più in ogni posto. Certo, questo è stata proprio un'avventura che volevo anche mettermi alla prova, vedere se resisteva un tour del genere, così culminato. Comunque sei qui e quindi ce l'hai fatta. Sono riuscita. Ci sei riuscita. Allora, ma che cosa significa? Perché tu spesso ti esibisci nei club, io seguo le tue avventure come quelle di tanti altri amici e colleghi, no? Fortunatamente con i social network è tutto più facile seguire gli altri. Ti esibisci nei club, fai i teatri quando capita, però poi ti piace ancora questo rapporto con la strada, perché che cosa perché ti dà? Mi sento proprio libera, perché adoro il rapporto che si genera con la gente che passa, la reazione nella musica, la reazione con la musica. C'è un qualcosa di molto speciale quando tu fai una scelta di un brano piuttosto che un altro, sai che cosa può generare, e poi la scelta anche del luogo, l'acustica del luogo. Se magari suoni in una piazza è un conto, se suoni in un posto che magari ha più risonanza è un altro conto. E tutto questo è questo. Il non avere distanza col pubblico, con chi ascolta, è anche un'esperienza che a me personalmente nutre tanto, proprio perché riesco a tornare a, anche io quando sentivo la musica, che ero ingenua fra virgolette sul come si fa la musica, torno alla sensazione vera e propria. Volevo fare una domanda. Da tutti i posti in cui sei stata, diciamo, spesso diciamo, si crea una magia particolare quando c'è il pubblico e l'artista per strada, anche in base ai luoghi in cui suoni. Dove si è creata, dove hai percepito questa magia? Dove l'hai percepita di più? In quale luogo? In quale città? Allora, mi è successa una cosa bellissima a Praga, nel ponte Vecchio, e mi è successo che, allora, innanzitutto uno arriva a un posto, la prima cosa che farebbe una persona molto organizzata, vedi dove si può suonare e dove no. Io questa cosa evito di farla sinceramente perché mi mette ansia e mi mette paura. Io posto le mie cose, inizio a suonare sempre a un volume molto discreto e vedo che cosa succede. Allora, quando arrivo al ponte, io già sapevo che a quel ponte non si poteva suonare. Cioè c'è un divieto per i buskers di esibizione? In realtà i gruppi sono pochi, quelli che vanno lì. C'è musica dal vivo, però non qualsiasi può arrivare a suonare al ponte. Devi essere autorizzato. Devi essere autorizzato sostanzialmente nelle ore. E io avevo solo un giorno a Praga e avevo proprio il desiderio. Eri piena di note, come ero diciamo piena noi. Di note. Piena era di note. Ed era pieno di tramonto anche quel momento. E me lo volevo proprio godere. E quindi? Allora ho montato il mio amplificatore, la mia chitarra, ho iniziato a suonare, la gente si è fermata subito, ha iniziato a dondolare con la musica, perché ho iniziato a fare una versione di Bessame Mucho, cosa che magari generalmente anche nella strada faccio un altro repertorio di quello che posso fare in un club, che posso fare. Quindi hai un repertorio particolare per questo tipo di pubblico. Ma anche il repertorio dipende dal posto dove arrivo. Se vado in Spagna, se vado a Barcellona faccio una cosa, se vado a Madrid faccio un'altra. Tutto dipende anche di cogliere, non lo so, il mood della gente. Eh sì, questa è una cosa che devono fare tutti gli artisti, cogliere il mood della gente. Complimenti Gisela, prima o poi dovrò seguire, magari potevamo farlo con le telecamere e tromba, poteva essere una bella puntata per variazioni su tema. Sì, bellissima, perché immagino anche visivamente sia una cosa impressionante. Va bene, allora ci ricorderemo della nostra Gisela, però dobbiamo anche ricordarci che sta per arrivare l'informazione di Radio 24 e ci andiamo però con il sound di Window Cat. Chi è questo gatto alla finestra? È un gruppo formato da 7 membri, loro vengono dagli Stati Uniti, dal North Carolina, e hanno come ispirazione il sound degli Hiatus Kaiyote, ma anche degli Snarky Puppy e dei Wolfpack. View of View, Window Cat al soundcheck di Radio 24, poi l'informazione e poi seconda parte per noi qui dal Groovemaster Studio. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Seconda parte del soundcheck di Radio 24 dal Groovemaster Studio con il nostro Francesco Tromba, felice di avere accanto a sé Gisela Oliverio, chitarrista, cantante argentina, nata a Cordoba, dove ha iniziato il suo rapporto con la musica, passando per gli studi di architettura, poi è arrivata anni fa in Italia, a Roma, dove studia musica al Conservatorio di Santa Cecilia, continua a fare concerti per club. Sto raccontando velocemente la tua storia, quello che ci siamo detti nella prima parte, ma adora andare in giro per il mondo con la sua chitarra e il suo microfono per suonare in strada. E questa è una cosa che voglio dire agli amici di Radio 24 in ascolto, che molto spesso gli artisti che si esibiscono per strada non lo fanno per necessità, lo fanno proprio con uno spirito diverso, quello di vivere la loro arte, il loro talento, la loro musica in questo caso, con un rapporto diverso da quello che si può avere lavorando in un club o in un grande palcoscenico. Sì, è uno stimolo nuovo, diverso, che magari in realtà è una dimensione che si sta un po' perdendo in questi anni, invece tanti artisti vogliono recuperarla, perché l'energia che dà la gente è ancora più forte quando si è per strada. Ecco, io quando vedo artisti, in modo particolare musicisti, che si esibiscono per strada, mi fermo sempre, intanto perché scopro dei veri e propri talenti. A volte ho riconosciuto, che so, a New York dei musicisti accreditati che lavorano in metropolitana, e Gisella mi può confermare che a volte è più facile guadagnare lavorando per strada che facendo l'artista che attende un ingaggio nei club. Ci sono musicisti, parlo di New York perché quella è una città particolare, dove c'è la gente che si ferma, ascolta e lascia delle mance anche interessanti nel cappello, nella custodia del tuo strumento. Lì ci sono dei veri e propri professionisti che guadagnano di più facendo questo che lavorando nei club. Sicuramente è più semplice guadagnare suonando nella strada che pensando, almeno in questi tempi, suonare in un club. È vero. Dimmi una cosa, allora vediamo un po' di raccontare come è organizzata la giornata. Tipo, tu ti svegli la mattina, diciamo che sei già a Praga, no? Innanzitutto bisogna essere molto riposati, perché il giro in sé il giro in sé non è semplice comunque. Fare avanti e indietro con una valigia, con un ampli, certo, che pesa 9 kg, un'asta, un microfono, una chitarra, quindi bisogna è quasi essere una riposata. Palestra. Diciamo che sei riposata. Sì. Partiamo per l'avventura, fai una bella colazione, perché bisogna essere in forza, no? È così. Quindi riposati, una bella colazione e iniziamo la giornata lavorativa. Di solito ci sono degli orari interessanti per l'esibizione in strada? Dipende il tempo che abbiamo in un posto. Questo si regola da quanto tempo ci possiamo fermare in una città, più o meno, che pure gli orari in cui la gente sale a pranzo o che va a fare un aperitivo alla sera. Ma nel mio caso scelgo soprattutto le persone che stanno, i luoghi dove le persone passeggiano. Ecco, io credo che sia importante la scelta del luogo, perché se vai di fronte a uffici nessuno ti guarda, perché vanno di fretta, la gente deve lavorare, hanno altre cose a cui pensare. Quindi è diversa la predisposizione all'ascolto. Ecco, quindi devi scegliere dei posti turistici. Sì, turistici, ma non solo, posti dove la gente si va a fare una passeggiata. Una passeggiata, quindi, e le passeggiate si fanno anche in orari particolari? No, sto cercando di capire se c'è una ricerca scientifica. L'orario più bello è l'orario del tramonto, dopo le 5, quando la gente comunque è rilassata e non ha degli impegni. Magari anche quelli che sono usciti dall'ufficio non vanno di corsa a casa. Ecco, di solito quante ore al giorno lavori esibendoti per strada? Ma io massimo posso fare faccio uno spettacolo di massimo un'ora e mezza. Vabbè, ma ore. Quanti ne fai al giorno? Ma uno. No, io pensavo che invece fosse una cosa più impegnativa. No, uno, basta uno, fatto bene, mi riempie l'anima. È il cappello, è il cappello. È il cappello, ti riempi il cappello. Allora, dimmi un po', qual è l'incasso più forte che hai fatto e dove l'hai fatto? Vabbè, te succedono cose assurde. A Madrid qualche anno fa mi è successo che mi si è fermata una persona, mi ha lasciato 100 euro, mi ha chiesto altri due brani, mi ha lasciato 300 euro, mi ha chiesto e mi sta lasciando ancora più soldi. Senti, e poi ti ha invitato a cena? Così. No, no, per non niente. Non ti ha neanche invitato a per cena? Per niente, no, mi ha dato solo il suo contatto per se avevo bisogno di qualcosa. Ma pensate, spagnolo o italiano? No, spagnolo. Spagnolo. Hai capito, tromba, come si fa? Beh, un italiano forse è un po' più difficile avere tutta questa generosità. È vero. Bene, vedi, sto iniziando a entrare nel tuo mondo, lo trovo molto interessante, Gisella. Il tutto però, poi racconteremo dopo, per supportare la produzione del nuovo album, ma lo raccontiamo fra pochissimo, perché tutto, vedi, c'è una logica in questo lavoro che sta facendo Gisela. Sì, è tutto conseguenziale, tutto collegato. Allora, seconda parte del soundcheck, il suono qui cambia tromba, abbiamo scelto un suono etnico, contemporary, world e vagamente elettronico, anzi sì. In questo caso molto elettronico. Particolarmente elettronico. Eh sì, perché sta per arrivare Bonobo dal nuovo album Bambro Koyo. Soundcheck, il suono della musica. Si intitola Curao questa meravigliosa esperienza fatta dal DJ producer Quantic con la voce e la presenza scenica di Nidia Gongora. Da dove arriva questa Nidia tromba? Colombiana. Colombiana, guarda, questo album è fantastico. Sì, sì, molto particolare, molto bello. Siamo passati a un sound etnico anche per celebrare la presenza della nostra Gisela Oliverio, argentina, qui nel nostro studio. Ci sta raccontando, io sono contento perché sto proprio immaginando questo tipo di vita con gli strumenti in giro per il mondo e per la strada con un pubblico vario, un pubblico anche in movimento che poi probabilmente si impara anche a riconoscere. Qual è stata in questo ultimo giro che hai fatto la città più fredda come accoglienza? Amburgo. Quelli di Amburgo, Così, così bella ma così fredda proprio. Però voglio dire, è anche questo una messa alla prova, no? E ma quando... non è che avevi sbagliato location, orari? No, credo di no. La soddisfazione avviene quando nel passaggio delle persone che non prestano manco attenzione perché sono comunque chiusi nel loro telefono, chiusi nel loro momento, qualcuno si ferma e aspetta che arrivi il finale del brano per fare un applauso. E queste sono delle soddisfazioni che vanno oltre. Quindi anche ad Amburgo esistono le eccezioni che confermano la regola. Ma anche nella difficoltà, quando un momento non esce bene, io personalmente sono una persona che tendo a cogliere il lato positivo, l'insegnamento, proprio il momento anche di ispirazione. E, casualmente ad Amburgo una persona fece delle foto, fece qualche video e poi mi contattai su Facebook per mandarmi tutto e farmi dei complimenti. Questa persona non mi ha lasciato soldi, mi ha semplicemente scritto qualche settimana dopo raccontandomi che cosa aveva trasmesso a lui la mia musica in quel momento. Ecco, non ti ha lasciato i soldi, però per un artista anche i soldi sono importanti, soprattutto in questo periodo per te. Certo, non stai andando in giro, ma stai diffondendo via internet questa campagna di crowdfunding, lo posso dire, sì? Assolutamente. Perché è ancora attiva, ancora per qualche giorno, quindi potete supportare anche voi la produzione del nuovo album di Gisela, nostra ospite. Quindi crowdfunding, noi ne abbiamo parlato molto spesso qui al Soundcheck. Sì, abbiamo parlato di diverse piattaforme che utilizzano gli artisti per comunque utilizzare anche questi nuovi mezzi per produrre i primi dischi, magari è un aiuto importante perché comunque non essendoci più le case discografiche forti a produrre, a puntare sugli artisti, questo è un modo per adeguarsi ai tempi. Sì, il concept del crowdfunding è quello che praticamente acquisti il CD in qualche modo a offerta libera ancora prima della stampa e della distribuzione. Gisela, funziona così? Tu come hai organizzato come hai organizzato questa produzione? Allora, innanzitutto fai delle offerte che hanno diversi budget. E sostanzialmente sì, tu appoggi il progetto, metti un tot di soldi in cui io offro una ricompensa che vanno dai 5, nel caso mio, vanno dai 5 ai 75 euro. Senti, ma esattamente se volessero gli amici di Radio 24 supportare il tuo progetto, che cosa dovrebbero fare in questo momento? Innanzitutto, inizialmente, possono entrare alla mia pagina Facebook, Gisela Oliverio, o al mio sito www.giselloliverio.com, dove lì troveranno la pubblicità della piattaforma e possono linkare direttamente e entrare alla mia sezione. Ecco, e tu racconti tutto il progetto, la tua storia, ci sono fotografie? Assolutamente, c'è un video in cui io casualmente ho fatto in quest'ultimo giro a Parigi, che si vede anche in un momento un bellissimo applauso che scatta sotto la Torre Eiffel. Ah, vera Parigi proprio? Vera Parigi. Sei contenta? Sì, troppo, perché mi emoziono di pensare a quel momento. Ah, te lo ricordi ancora? Sì, assolutamente. I parigini, non sono come quelli di Amburgo. No. Va bene, Tromba, io direi di ascoltare un altro brano da questo album Curao di Quantic con Nidia Gongora. Ah, questo è fortissimo. Sì, bellissimo. Poi lei è un personaggio molto particolare. Gisella, perché... ti piace? È particolare lei, Sì, sì, è un diciamo, è considerata la custode, diciamo, della tradizione afrocolombiana, quindi è un punto di riferimento per le nuove generazioni. Guarda, mi levo, guarda, io di solito in studio vengo vestito abbastanza, ma oggi faceva troppo caldo, sono proprio con le Havaianas, Mi levo le Havaianas, scusatemi, no, tanto sono in radio, non mi vede nessuno. Mi levo le Havaianas, sentite il groove che è partito. Oh yeah yeah, al soundcheck Radio 24. Gisella, dai, facciamoci sto ballo, vai. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Oh Mo Sangare al soundcheck di Radio 24. Che sound, mamma mia, che musica oggi, eh? Eh sì, poi si sente anche Tony Allen alla batteria in questo progetto. Fortissimo, fortissimo. Grande musica in questa seconda parte, proprio per celebrare la presenza della nostra Gisella Oliverio qui per raccontarci la sua vita da musicista. Tra l'altro la tua musica si muove un po' in questo versante, sei senz'altro più latina, qui stiamo più sull'afro, ma anche la tesi che tu stai preparando per il conservatorio riguarda proprio il Latin jazz, l'etnico jazz latino, giusto? Sì, innanzitutto io per la mia laurea triennale feci una tesi sulle origini del Latin jazz, per cui sono stato un mese e mezzo a Cuba, ho fatto dei corsi, ho partecipato anche al Festival del Jazz. Quindi la mia ricerca va a approfondire le origini, ma anche la influenza non solo di quello che conosciamo qui in Europa, che è Cuba e Brasile, se non tutta l'altra influenza della musica latinoamericana, soprattutto anche la musica aborigene, la musica che parte dallo Andes, nel jazz, come anche nell'attualità questi ritmi si incrociano con la sonorità del jazz. Mi dispiace che non abbiamo il tuo album pronto, perché sennò suonavamo senz'altro qualcosa, però noi abbiamo una chitarra, non so se ti va, che dici? Sì, dai, facci una cosa, dai. Ti diamo il tempo di metabolizzare la richiesta, intanto facciamo partire un'altra cosa. Tromba, vai a spolverare prima di tutto la chitarra, che qui non la suona nessuno, ogni tanto qualcuno, però la devi accordare anche, mi sa. Veramente? No, Gisella, prendi la chitarra, la facciamo accordare a Gisella, poi ci sono, dai, un pezzo, almeno una cosetta ce la fa. Gisella, va bene, dai. Ci proviamo. Ok, ci proviamo. Sì, questa ci piace, Malika di Ronia. Sì, tantissimo. Bocantè, produzione Snarky Puppy al soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Ce l'abbiamo fatta ad accordarla questa chitarra, Tromba? L'hai accordata tu? No, non l'ho accordata io, fortunatamente. Gisella, perdonami, Però abbiamo chiesto alla nostra ospite Gisella Oliverio di suonarci qualcosa. Che ci vuoi suonare? Allora, questo brano... Aspetta, perché sei distante così, ti devi avvicinare un secondo. Questo brano l'ho scritto poco tempo fa, in una delle mie passeggiate nel mese e mezzo che sono stata a Rio. Sì. Quindi è venuto fuori un brano in portoghese. Ma come portoghese? A Rio, tu sei argentina, invece di cantarci una cosa. Io amo il Brasile. Allora ci fai una cosa, come si intitola il brano? Ubuntu, bello. Prepogi lotta. Ubuntu Ubuntu Ubuntu in diretta al soundcheck di Radio 24, il suono della voce della chitarra naturale di Gisela Oliverio. Grazie Gisela, ci hai fatto grazie un regalo. A voi. Ubuntu, che cos'è Ubuntu? Ubuntu è un antico detto africano che ho conosciuto in Brasile. È praticamente un modo di dire todos juntos. Ah, tutti uniti. Tutti uniti. Bene, tutti uniti alla meta. Grazie a Francesco Tromba e grazie a Gisela Oliverio, che troverete nelle sue pagine Facebook, se avrete la gentilezza di supportare il suo lavoro, campagna crowdfunding, che troverete con tutte le informazioni del caso. Io ti vengo a supportare, Gisela. Grazie, te lo dico Gigi. Proprio perché ti voglio bene, supporto la tua arte e come dire, la tua passione per la musica. Grazie mille JJ, grazie anche a Francesco, siete stati carinissimi con me oggi. Grazie a te Gisela. Grazie, grazie a voi. Vi lascio con The Groovinators, The Rule of Thumb, il sound brasileiro di John Scofield, rivisitato dai Groovinators, questa vecchia band che gestivo anni fa. E noi ci risentiamo domani alle 19:15, sempre soltanto dove, Tromba? Su Radio 24. Bravo, hai visto che lo sai. Ciao Gisela, grazie. Ciao, ciao, grazie.